50.000 tifosi da Cellone e Manchester. Il questore di Roma spiega come funzionerà il sistema di sicurezza prima e dopo la partita. I giornali inglesi all'attacco di Berlusconi, sia il Financial Times che l'Independent parlano di pericolo per l'Italia. L'acquisizione di Opel, Berlino annuncia un prestito ponte da 1,5 miliardi di euro. Montezemolo dice la Fiat ha fatto tutto il possibile, ora le decisioni spettano ad altri. Sciopero di 8 ore nella zona industriale di San Rocca, nel Cagliaritano, protesta per la morte dei 3 operai avvenuta ieri in una cisterna. Ancora un dato negativo sull'occupazione a marzo, nelle grandi imprese è diminuita dell'1,2% rispetto all'anno scorso. Almeno 30 morti per un attentato suicida contro la stazione di polizia Lahore in Pakistan. Giro d'Italia, oggi nelle zone terremotate d'Abruzzo. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. E da Simone Spezia. In apertura la finale di Champions League che ci sarà questa sera a Roma, a fronteggiarsi dal punto di vista sportivo naturalmente Manchester United e Barcellona. Una giornata di festa sportiva, o che almeno dovrebbe esserlo, perché le ultime notizie sembrano dimostrare che non è così, che quindi genera anche preoccupazioni per la sicurezza. Allora ci colleghiamo innanzitutto con il nostro Dario Ricci, che in questo momento si trova nel centro della capitale. Dario, raccontaci un pochino il clima e quali sono le novità sportive. Sì, buongiorno da Roma, sto camminando qui per via Condotti verso Piazza Spagna e il clima sembra essere positivo, tifosi del Barcellona e del Manchester camminano fianco a fianco e si stanno scattando le foto di rito sulla splendida scalinata, anche se questo clima contrasta con le notizie che pure sono rimbalzate dalla notte. Prima la notizia dell'arresto di 2 tifosi del Manchester United ubriachi un pub di Campo di Fiori e che hanno aggredito gli agenti della polizia dopo aver disturbato i clienti, erano stati chiamati gli agenti dallo stesso proprietario del locale. Poi alle 2 di questa notte, notizia resa nota pochi istanti fa, il ferimento, l'accoltellamento di un tifoso del Manchester nella zona di via Vitelleschi vicino Piazza Risorgimento, l'uomo di cui non è stata resa nota l'identità è stato ferito con 3 colpi alla coscia e con una bottigliata alla nuca, non corre serio pericolo, ma chiaramente è una notizia che desta preoccupazione malgrado le ingenti misure di sicurezza, Simone, che sono state messe appunto per la finale che scatterà alle 20:45. Sì, Dario, tra l'altro ci arrivano proprio in questi minuti delle altre notizie e riguardano un'aggressione avvenuta ad Ostia all'uscita di un pub sul litorale romano, insomma, pensando che fosse un tifoso inglese, 4 tifosi della Roma hanno aggredito un americano, un giovane americano di 23 anni che è stato trasportato all'ospedale, è stato colpito da 2 coltellate. Dario, però veniamo alla parte sportiva adesso. Sì, infatti solamente a completare le informazioni, in realtà cioè è proprio questa l'asse che la Digos sta controllando con particolare attenzione, cioè questa rivalità tra i tifosi romanisti che potenzialmente possono allearsi con le frange estreme del tifo catalano in chiave anti-inglese, vista appunto la storica rivalità tra romanisti e tifosi del Manchester United. Per quanto riguarda la partita, ci si aspetta una grande festa, il grande duello tra Messi e Cristiano Ronaldo, difesa del Barcellona con qualche assenza di troppo, Pujol Abidal e Dani Alves squalificati, ma è soprattutto l'attacco catalano quello che può fare la differenza. Pensate, 150 gol finora segnati nelle competizioni ufficiali quest'anno. È chiaro che però dal punto di vista del Manchester United sono Cristiano Ronaldo e lo stesso Rooney che potrebbero invece spostare il lago della bilancia, Simone. Grazie allora Dario Ricci, naturalmente torneremo a collegarci con te nelle prossime edizioni del GR24. Intanto ieri siamo andati a farci un giro fra i tifosi, anche ieri, e capire come funzionerà l'organizzazione della sicurezza. Marching, 3-0 Barcellona. Tutti contro il Manchester. Tutto pronto in città per la finale di Champions League. I tifosi dei Red Devils e quelli del Barça da giorni ormai affollano le vie della capitale, approfittando per fare un po' di turismo nonostante il caldo estivo. Imponenti le misure di sicurezza previste. A vigilare sulle 2 tifoserie saranno circa 5.000 tra poliziotti e carabinieri. Spina nel fianco della macchina organizzativa gli oltre 5.000 tifosi inglesi senza biglietto già arrivati a Roma. Tra questi, ha assicurato il prefetto Pecoraro, gli ultra saranno solo qualche decina. Allo stadio sono attivati attesi 67.000 spettatori, 30.000 inglesi, 20.000 spagnoli, il resto italiani. Arriveranno o sono già arrivati con 150 voli charter, mentre i 1.700 da Barcellona arriveranno in nave al porto di Civitavecchia. Nelle zone limitrofe allo stadio il divieto di sosta è già operativo da ieri, mentre a partire dalle 16 di oggi scatterà il divieto assoluto di circolazione. Il piano di sicurezza prevede una stretta sulla vendita di alcolici. A partire dalle 23 di oggi scatterà il divieto assoluto niente alcol fino alle 6 di domani mattina. Paola Cavadigi, R24, Il Sole 24 Ore, Roma. E il nostro Dario Ricci ha intervistato il questore di Roma, Giuseppe Caruso. Sentiamo. Roma è collaudata per questo tipo di grandi eventi, quindi voglio dire, non ci coglie impreparati. Siamo ben organizzati, abbiamo, ritengo, pianificato tutto nei minimi dettagli dal momento in cui i tifosi ospiti mettono piede sul territorio italiano fino a quando non andranno via. Quali sono gli elementi di criticità su cui concentrerete la vostra attenzione? Problemi di ordine pubblico, di grosso impatto di ordine pubblico, non ne temiamo. Noi temiamo piccole scaramucce, qualche blitz di qualche tifoso particolarmente vivace, come seconda e ultima cosa, spero, di qualche criticità, quelli che magari vengono non tanto senza biglietti, perché già sono consapevoli del fatto che magari la partita la vedranno dentro qualche pub, qualche esercizio pubblico, quanto quelli che in buona fede hanno acquistato dei biglietti e magari questi biglietti sono falsi. Allora lì ci sarà un qualche problemino quando si metteranno in fila i tornelli per accedere alla struttura sportiva, potrebbero creare qualche problemino. Comunque ci siamo attrezzati anche per questo. Ci sarà la grande partita e poi chiaramente ci sarà un dopo partita tra vincitori, sì, e vinti, probabilmente a contatto insieme nel centro. Da questo punto di vista, quali sono i cardini del sistema di sicurezza? Ma i cardini del sistema di sicurezza sono innanzitutto quello di far defluire, diciamo, le tifoserie della squadra che purtroppo per lei sarà sconfitta. Non appena la zona circostante lo stadio sarà completamente vuota dai tifosi ospiti perdenti, faremo defluire anche gli altri. In tutte le zone cosiddette calde della città, in tutte le piazze principali, ci saranno dei nuclei di pronto intervento 24 ore su 24. E questo era il questore di Roma, Giuseppe Caruso, intervistato da Dario Ricci. Vi ricordiamo tra l'altro che Radio 24 seguirà la finale di Champions, sia con i collegamenti nel corso dei GR e poi con uno speciale a partire dalle 22. E ora parliamo di un altro evento sportivo in arrivo nella capitale. La domenica ci sarà la tappa finale del Giro d'Italia del Centenario, che approda proprio a Roma. Ma oggi il Giro è in Abruzzo, dove si trova naturalmente anche il nostro inviato, Dario Ceccarelli. Dario. Sì, ciao Alessandra, ciao Simone, sì, siamo qua adesso a Chieti per l'esattezza, da dove tra un paio d'ore alle 15.10 partirà la tappa forse più attesa, perché intanto perché è in Abruzzo e Danilo Di Luca è uno dei favoriti alla vittoria finale, e poi perché è una tappa molto importante, si va in montagna, è proprio una corsa 83 km di cui 16 in salita, tutti gli ultimi 16, e qui si potrebbe decidere il giro, nel senso che la maglia rosa Mencio va a 39 secondi vantaggio su Danilo Di Luca e c'è la possibilità che Di Luca se la giochi. Ovviamente qui tutti fanno il tifo per Di Luca perché è il beniamino locale e poi rappresenta così una popolazione che insomma ne ha passate parecchie, sappiamo il terremoto, sappiamo le tendopoli, sappiamo tutto quello che è successo. E difatti si discute qui in Abruzzo anche di un altro avvenimento, che è così la tensione che c'è tra il governo centrale e i sindaci dei comuni che hanno avuto i danni del terremoto. C'è una contestazione perché il decreto è slittato, sarà in aula il 15 giugno alla Camera, e soprattutto i sindaci dicono attenzione, ci vogliono più fondi. Il sindaco dell'Aquila Cialente dice senza soldi il centro storico non rinascerà più. Ieri siamo andati proprio nel centro storico dell'Aquila in piazza del Duomo perché così avevamo l'opportunità di andare con i vigili del fuoco a dare un'occhiata, e effettivamente è un paesaggio spettrale, un paesaggio che fa paura, non può entrare nessuno, e abbiamo accompagnato così un signore che si chiama il signor Ferrer, che ha la cartoleria più antica dell'Aquila, e l'abbiamo accompagnato perché lui stava ritirando tutto quello che aveva, il suo materiale, perché riaprirà l'attività fuori dal centro, fuori dall'Aquila, perché dice ci vorranno molti anni. L'abbiamo intervistato e possiamo sentirlo. Che effetto le fa ritornare nella sua cartoleria dopo quello che è successo? È completamente diverso, è prima, ma non la mia cartoleria, la mia città. come la città di tutti gli aquilani. È un'emozione, ogni volta che ci rientro è sempre diverso. Devo dire e ringrazio soprattutto i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e quant'altro per l'opera che stanno facendo, perché sono veramente eccezionali. La prima volta che siamo arrivati era la vera città terremoto, tutti i calcinacci, tutti i palazzi irriconoscibili, una cosa apocalittica veramente. E invece adesso piano piano sì, è tutto imbragato, però già è tutta altra parvenza. Siamo consapevoli tutti quanti che il centro sarà inagibile ormai per anni. La sua cartoleria cosa succederà? Riaprirà fuori? Aspetta che verrà rimessa a posto? Aspettare che rivenga messa a posto vuol dire aspettare anni, quindi è proprio sarebbe troppo bello avere la cartoleria domani. E quindi, come tutti quelli che avevano un'attività in centro, non parlo solo per me ma per tutti quanti gli aquilani, ci stiamo riorganizzando. Siamo gente semplice, gente di montagna, siamo gente forte che è sempre stata con le maniche rimboccate, e continueremo così, più forte di prima. Quindi tutti quanti riapriremo, chi da una parte, chi dall'altra, nella prima periferia. Vi ricordiamo come sempre che vi aggiorneremo in diretta sull'arrivo di Tappa, e poi dopo il GR delle 19, Voci dal Giro, il nostro speciale dedicato al Giro d'Italia. È stato presentato in anteprima a Torino durante la Fiera del Libro, ma arriverà nelle sale venerdì il film tratto dal romanzo di Stieg Larsson, Uomini che odiano le donne. Il libro, lo sapete, è stato un caso letterario del 2008, che solo in Italia ha venduto 650.000 copie. Alla presentazione romana, la conferma, non appariranno altri libri dello scrittore svedese scomparso 5 anni fa. Non uscirà mai. La famiglia di Stieg Larsson ha deciso di non pubblicare il quarto libro di Millennium. Lo ha confermato Søren Starmose, produttore dei film tratti dalla trilogia dell'autore svedese. Forse non era nemmeno il quarto capitolo della saga. Larsson, avendo in mente di articolare la storia in 10 romanzi, aveva scritto le tracce di tutti e si era divertito a scrivere il quinto prima del quarto. Stieg Larsson è morto il 9 novembre 2004. Aveva appena consegnato alla casa editrice Norstedts il manoscritto delle 2000 pagine in 3 volumi di Millennium. Pensava di assicurarsi la pensione e comprarsi con Eva, che divideva la vita con lui da 32 anni, una casetta in campagna. Eva, compagna, non moglie, non ha ereditato un centesimo, ma ha visto Millennium diventare in tutta Europa un fenomeno editoriale unico. A lei è rimasto il computer di Stieg, che nasconde un potenziale tesoro. Eredi riconosciuti dalla legge svedese sono solo il padre Erland e il fratello Joachim, con i quali lo scrittore aveva pochi e poco calorosi rapporti. Il padre di Stieg afferma di aver visto 200 pagine dell'ultimo manoscritto sulla scrivania del figlio il giorno dopo la sua morte, stampe però che sarebbero sparite e di cui Eva nega l'esistenza. Secondo lo scrittore francese Guillaume Le Beau, esisterebbe un altro manoscritto che sarebbe addirittura il quinto, custodito nel portatile della rivista Expo. Tutto rimarrà un segreto. Ma con sullo sfondo le delicate trattative economiche tra Eva e i Larsson, le cose potrebbero anche cambiare. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13, 16 minuti, 55 secondi nella prima parte del GR Extra Large. Abbiamo dedicato un'ampia pagina alla finale di Champions League che si svolge questa sera a Roma. Ci sono anche notizie di cronaca, perché ci sono 2 persone che sono state accoltellate, tra cui un tifoso del Manchester da parte dei tifosi della Roma. E poi abbiamo parlato anche del Giro d'Italia, che oggi fa tappa in Abruzzo, e di un manoscritto fantasma, un libro di Stieg Larsson. Ora ci occupiamo di morti sul lavoro. E sì, andiamo in Sardegna, dove oggi ci sono 8 ore di sciopero nell'area industriale di San Rocco, vicino Cagliari, una forma di protesta dopo che ieri 3 operai di una ditta esterna sono morti mentre pulivano una cisterna nella raffineria Saras. In diretta da Cagliari, Roberta Secci, quali sono gli aggiornamenti? Da stamane centinaia di lavoratori manifestano davanti ai cancelli della raffineria Saras di San Rocco, che è una 20 chilometri da Cagliari, è la più grande del Mediterraneo, di proprietà della famiglia Moratti. Il giorno dopo l'incidente sul lavoro, in cui sono morti 3 operai asfissiati in un enorme accumulatore di idrocarburi che ora è sotto sequestro, i sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero. Rose bianche e rosse sono state apposte ai cancelli, e il giorno in cui si terranno i funerali, che non sono stati ancora fissati in attesa dell'autopsia, sono presenti previste altre 4 ore di sciopero per consentire ai lavoratori di partecipare. Ieri notte, in un incontro con Gianmarco e Massimo Moratti, i sindacati hanno riproposto la questione della sicurezza nella raffineria e chiesto chiarimenti su quanto accaduto, ma per ora l'azienda tace, manifestando solidarietà ai familiari delle vittime, in attesa delle conclusioni della magistratura, che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo. È certo che i 3 operai della Commesa sono morti nel tentativo di soccorrersi a vicenda, ma non è chiaro se le procedure di sicurezza siano state rispettate. Da Cagliari per ora è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Roberta Secci. Appena 7 giorni fa la Saras era finita sotto la lente della procura di Cagliari. A suscitare l'attenzione dei PM era stato un film inchiesta ambientato a Sarroch, appunto, di qualche mese fa, che parla di raffinerie, inquinamento, ambiente, ma non solo. La raffineria è pronta. Le 1000 fiamme del forno, il più grande installato in Europa, si accendono in una notte dello stesso mese di gennaio, dando l'avvio ai processi di produzione. Al grande pubblico non dirà nulla il titolo Oil, ma la storia dei lavoratori, delle raffinerie sarde, delle ditte appaltatrici, delle paure di questi operai era già tutta lì, in 70 minuti di girato, già da qualche mese nelle sale indipendenti. Il giorno dopo l'incidente alla Saras vengono i brividi a sentire su internet stralci di questo film inchiesta. Con le ditte esterne si è sicuro che il lavoro viene fatto, risparmi minimo il 30% e il lavoro viene fatto nei tempi giusti. Ed ecco che perché succedono anche queste gare d'appalto a bassi costi e ci sono anche questi incidenti sul lavoro. La pellicola è stata girata dal regista e produttore indipendente Massimiliano Mazzotta, che per un anno e mezzo ha raccolto materiale, testimonianze, immagini, suoni. Io ho iniziato il film il 19 di agosto del 2007. In quel giorno che ho iniziato il documentario erano, guarda caso, i funerali di un ragazzo. Io non lo sapevo, però ho fatto le prime interviste. Dopo la terza intervista tutti dicono la stessa cosa, dico allora aspetta un attimo. Cioè cosa dicevano? Ma parlavano tutti delle stesse cose, il problema della sicurezza, del fatto che comunque in impianti del genere ci deve essere un piano di evacuazione per tutta la popolazione che sia comprensibile. Il funerale era di un ragazzo dipendente della Saras? No, era sempre un operaio delle ditte appaltatrici, torniamo sempre lì, questa sorta di, non so come dire, lavoratore di serie A e lavoratore di serie B. La Saras comunque vi aveva dato le autorizzazioni per entrare nello stabilimento, altre invece non ve le hanno concesse. Sì, la Polimeri è proprio leni, è proprio su questi, cioè bisognerebbe dirlo, cioè qualcuno lo deve anche dire, nel senso che sembra quasi solo Saras. Loro, siccome sono dei privati, ogni volta tutti i giornali li massacrano, ma non, nessuno dice Polimeri Europa. Quindi Eni. Eni. Nessuno dice una parola di questi signori. Ma tu lì non hai raccolto testimonianze, o sì? C'è una testimonianza, ma è oscurata sia la sua voce che quello che dice, perché è un dipendente della Polimeri. La Saras, che ha sempre assicurato di rispettare al massimo le norme di sicurezza dello stabilimento, 7 giorni fa ha presentato ricorso per chiedere il sequestro di questo film. A fine mese è fissata l'udienza in tribunale a Cagliari. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. E purtroppo c'è un'altra notizia che riguarda i morti sul lavoro. Questa mattina un operaio di 34 anni è rimasto ucciso, schiacciato dal carico che stava scaricando da un camion. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30 in un cantiere edile alle porte di Parma. E continuiamo a parlare di lavoro, ma per tutt'altro argomento, ossia l'Istat, che ha diffuso un po' di dati, fra i quali quelli dell'occupazione nelle grandi imprese a marzo. In diretta da Roma, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, e sono dati confortanti per il mondo del lavoro quelli che arrivano oggi dall'Istat. Aumentano infatti ad aprile le retribuzioni contrattuali orarie, più 0,1% rispetto a marzo 2009, del 3,5% su aprile 2008, ma sono tutti i primi mesi dell'anno a far ben sperare. Nei primi 4 le retribuzioni sono cresciute mediamente del 3,7%, il comparto che evidenzia l'aumento maggiore è quello dell'edilizia, 6,7%, seguono acqua e servizi di smaltimento e regioni e autonomie locali, fanalino di coda, forze dell'ordine e trasporti. Altro dato interessante è quello relativo alle ore di sciopero. Nei primi 2 mesi dell'anno c'è stato un vero e proprio crollo, con un meno 85% rispetto al 2008. In aumento invece le ore di cassa integrazione utilizzate dalle grandi imprese. A marzo sono state 35 ogni 1000 ore lavorate, con un aumento del 370% rispetto allo stesso mese del 2008. Sempre le grandi imprese fanno segnare una diminuzione dell'occupazione, meno 1,2% su marzo dello scorso anno. E da Roma è tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta. Ore di cassa integrazione naturalmente che sono state dovute anche alla crisi del settore auto, ed è del settore auto che parliamo proprio adesso. Eh sì, perché oggi è una giornata clou nella partita per l'acquisizione di Opel, per la quale, lo ricordiamo, sono tre i gruppi ad aver presentato un'offerta. Il governo tedesco dovrebbe dare forse entro questa sera il suo parere, parere che, come stiamo ricordando sempre in questi giorni, non è vincolante per la casa madre General Motors, ma che è comunque importante visto che la stessa GM è in difficoltà finanziaria, quindi il governo tedesco potrebbe dover intervenire con finanziamenti in favore della controllata Opel e di chi l'acquisterà. Finanziamenti che il ministro delle finanze tedesco oggi ha quantificato. Insomma, si parla di una possibile concessione di un prestito ponte da 1,5 miliardi di euro. Salutiamo Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, che in questi giorni ci sta aiutando costantemente a fare il punto. Beda, buongiorno. Buongiorno. Allora Beda, com'è la situazione fra i due concorrenti principali, Fiat e Magna? Ma è evidente che i due concorrenti in questo momento sono fondamentalmente testa a testa. Credo che Magna abbia ancora il favore di una parte consistente dell'establishment politico e economico del paese, ma rispetto a mercoledì scorso, quando le offerte sono state presentate al governo tedesco e alla General Motors, la sua posizione è andata in parte indebolendosi e viceversa si è rafforzata la posizione di Fiat per certi versi per il solo fatto che il tempo ha giocato a favore della società italiana. I giornali di oggi in Germania sono tendenzialmente fattuali, rispecchiano per certi versi il leggero vantaggio di Magna, ma sono molto molto incerti sull'esito finale di questa partita. Beda, esito finale che ci sembra di capire potrebbe anche non arrivare questa sera, quando ci sarà questo maxi incontro alle 21 del governo tedesco anche con i tre pretendenti. Sì, si sta facendo strada in Germania l'ipotesi che la riunione di questa sera non porti a una decisione definitiva sul partner da associare a Opel una volta annunciato il fallimento di General Motors. L'impressione è che il cancelliere Angela Merkel possa usare la riunione di oggi per risolvere alcuni aspetti finanziari e giuridici legati proprio al fallimento di General Motors. Il governo tedesco è preoccupato dalle ricadute sia legali sia finanziarie della decisione della casa madre americana. Vuole assolutamente proteggere per quanto possibile la società e il governo da ricadute fondamentalmente finanziarie, e la paura del governo è che in un modo o nell'altro la filiale tedesca della casa madre americana possa essere oggetto di richieste di denaro da parte dei creditori o altre cose di questo tipo. Quindi l'impressione è che la riunione di questa sera, a cui parteciperanno tutte le parti coinvolte, serva proprio a risolvere questo aspetto, dare a Opel e al governo tedesco un paracadute finanziario e legale al momento del fallimento di General Motors. Grazie Beda Romano per i tuoi chiarimenti. Per quanto riguarda nello specifico Fiat, vi segnaliamo anche che oggi il presidente dell'Ingotto Luca Cordero di Montezemolo ha detto, per quanto riguarda l'operazione Opel, che Marchionne ha fatto tutto il possibile. Ora, ha detto Montezemolo, le decisioni spettano ad altri. E a partire da oggi il Tribunale Fallimentare di New York potrebbe decidere le sorti per di Chrysler e la sua richiesta di procedere alla cessione delle principali attività a Fiat. I rappresentanti della casa statunitense continuano a premere per un passaggio in blocco all'Ingotto e per evitare un'asta spezzatino, ma i giudici dovranno valutare oltre un centinaio di obiezioni di fornitori del gruppo, dipendenti, ex dipendenti, altre parti, ma soprattutto alcuni detentori di obbligazioni. E se non si chiude entro il 15 giugno, Fiat può ritirare le sue offerte. Divise sullo sport, sul campanilismo, così Torino e Milano si riuniscono invece sul fronte della musica con il Festival Internazionale Mito Settembre Musica, giunto alla sua terza edizione. mette insieme melodie antiche, sonorità jazz, cultura classica e sound contemporaneo, il Festival Internazionale Mito Settembre Musica 2009. Oltre 200 eventi, in gran parte gratuiti, animeranno Milano e Torino dal 3 al 24 settembre. Francesco Micheli, organizzatore della manifestazione. Cominceremo con l'Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, con Yuri Temirkanov, abbiamo Charles Dutoit, conservatore a Cardo, abbiamo Antonio Pappano con l'Orchestra di Santa Cecilia, poi avremo un grandissimo concerto con la Filarmonica della Scala diretta da Ciunga al Pala Sharp, contemporaneamente a Torino ci sarà un altro grandissimo concerto a Pala Isosaki, vuol dire mettere insieme quasi 15.000 persone che ascoltano musica classica, e avremo delle grandi messe nel Duomo di Milano, Matteo da Perugia, la prima cappella musicale del Duomo di Milano, e poi ci sono delle maratone sia classiche che di musica jazz. Note che arrivano anche da molto lontano, dall'affascinante cultura giapponese, con il teatro del No e i percussionisti di Taiko. Imperdibile per gli appassionati di techno pop l'appuntamento torinese con la Yellow Magic Orchestra di Ryuichi Sakamoto in una delle sue rare apparizioni. E non mancano spettacoli dedicati ai bambini, che potranno ascoltare favole al ritmo di jazz. Avvicinare tutti alla musica, a partire dai più giovani, è uno degli obiettivi della manifestazione, alla quale la scorsa edizione hanno partecipato 170.000 persone. Micaela Nasca, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Due persone accoltellate a Roma, che si prepara alla finale di Champions League. 50.000 tifosi da Barcellona e Manchester. Il questore della capitale ci dice: siamo pronti a gestire qualsiasi problema di ordine pubblico. Giornali inglesi durissimi con Silvio Berlusconi. In due editoriali, Financial Times e Independent, lo definiscono un pericolo per l'Italia. Opel Berlino annuncia un prestito ponte da 1,5 miliardi di euro. Montezemolo, la Fiat ha fatto tutto il possibile, ora le decisioni spettano ad altri. Sciopero di 8 ore nella zona industriale di San Rocca, nel Cagliaritano. Protesta per la morte dei 3 operai avvenuta ieri in una cisterna della raffineria della Saras. Ancora un dato negativo sull'occupazione: a marzo nelle grandi imprese è diminuita dell'1,2% rispetto all'anno scorso, del 3,4% al netto della cassa integrazione. Aumentano in aprile le retribuzioni. Almeno 30 i morti per un attentato suicida contro la stazione di polizia Lahore in Pakistan. E siamo appunto alle parole che due quotidiani inglesi dedicano oggi a Silvio Berlusconi, al presidente del Consiglio. Giulia Crivelli, allora, che cosa dicono Financial Times e Independent? Comincerei da Financial Times, che è, diciamo, il più neutro dei due. L'Independent è un giornale un pochino più schierato, un giornale, diciamo, più schierato a sinistra. Il Financial Times è appunto una testata economica che, semmai, se proprio deve essere schierata da qualche parte, è più schierata verso la destra. L'editoriale, quindi proprio nella sezione editoriali, quelli non firmati, sono 3 ogni giorno. Nella logica dei giornali britannici, esprimono l'opinione del giornale e per questo non sono firmati e non di un singolo giornalista, e sono addirittura sotto questo motto dei Financial Times, che è without fear and without favor, cioè senza paura di nessuno ma senza neanche favorire nessuno. Ebbene, in questo editoriale, che si intitola La pericolosa influenza delle cronachette, diremmo così, delle burlesque cronies, si cerca di riassumere l'intricatissima vicenda Noemi Letizia, però soprattutto si spiega che la cosa più grave è che Berlusconi abbia mentito, palesemente mentito secondo il Financial Times, quando qualcuno gli ha chiesto di dire la verità su questi incontri, su come è nata l'amicizia con la famiglia Letizia, eccetera. E soprattutto quello che è pericoloso, perché così dice addirittura il Financial Times, dice pericoloso per l'Italia e un brutto esempio per tutto il mondo, è che sta snaturando la politica, rendendola appunto un po' il terreno dell'opinione del più forte, dell'opinione del più ricco, dell'opinione del proprio perché sono ricco e forte posso fare quello che voglio e sono al di sopra di ogni regola. Chi mi critica è perché è strumentalizzato oppure è imparziale, nessuno mi giudica come vorrei essere giudicato e quindi la colpa è degli altri. Allora Giulia, rimaniamo sul Financial Times, perché se da una parte ci sono critiche in qualche modo per l'Italia, dall'altra parte invece ci sono note positive, cioè un giudizio sul piano Fiat in qualche modo lusinghiero. Sì, tra l'altro ricordo che poi in passato Financial Times stesso, quando il nostro governo quando Financial Times ha ritenuto che il governo Berlusconi avesse fatto delle cose positive, l'ha sempre scritto. Quindi io davvero credo che non ci sia possibilità di accusarlo di parzialità, tant'è che per esempio in un'altra vicenda italiana, sempre nella parte degli editoriali, questa volta strettamente economici, la Lex Column, cioè l'editoriale di punta è sulla Fiat e l'offerta della Fiat per Opel viene giudicata, con tanto di cifre naturalmente, non così per simpatia, la migliore. Quindi è come se si consigliasse a chi dovrà decidere, cioè la cancelliera Angela Merkel e tutte le altre autorità tedesche, che appunto in un momento così difficile, di tutte le offerte sul tavolo, la migliore resta ancora quella messa insieme da Marchionne e dalla Fiat. Grazie Giulia Crivelli, ci risentiremo con te domani sempre per la rassegna stampa internazionale. Ora invece parliamo di politica di casa nostra. Sì, parliamo di politica siciliana, perché due giorni fa il presidente della regione Sicilia, Raffaele Lombardo, come sapete, ha azzerato la sua giunta, dando anche qualche apertura in qualche modo al Partito Democratico. E allora ospitiamo Francantonio Genovese, che è il segretario del Partito Democratico in Sicilia. Buongiorno. Buongiorno. Genovese, innanzitutto una sua valutazione generale su questa crisi nella giunta siciliana. Beh, guardi, che la giunta fosse inadeguata e che non avesse prodotto effetti su quelli che erano le azioni di governo proposte era già una cosa che dicevamo da tempo. È esplosa la coalizione al proprio interno, non è riuscita a dare neanche un segnale di sintesi vero durante questo anno di amministrazione regionale, e oggi ovviamente con tutta la propria violenza è venuto fuori quello che è il dissidio all'interno di questa maggioranza, la lacerazione profonda in termini politici ma anche in termini di rapporti personali. Io credo che qualunque cosa abbia in mente il presidente Lombardo è giusto che la esterni al più presto possibile, perché un governo non può fermarsi. Già è un anno che la Sicilia non ha alcuna indicazione vera e concreta per un'ipotesi di sviluppo. Se dovesse continuare così sarebbe davvero una tragedia per tutti i siciliani. Ecco, veniamo alla vostra reazione anche alle offerte di Lombardo, perché Lombardo non ha escluso, come si diceva, di aprire le porte ad esponenti del Partito Democratico. Cosa rispondete? Il Partito Democratico è l'opposizione, si è presentato contro il presidente Lombardo un anno fa e non credo che possa agire diversamente da come ha fatto fino adesso. Ovviamente nell'interesse, nel solo esclusivo interesse dei siciliani, si dovrà capire qual è la mossa successiva del presidente, che non ha davvero fatto grandi aperture, ad onor del vero, al Partito Democratico. Ha detto che comunque si aspetta un'opposizione costruttiva sui provvedimenti e su tutto ciò che da qui in avanti ci sarà. Ma il problema vero non è tanto questo, il problema vero è la crisi profonda del centrodestra in Sicilia e l'azione di governo assolutamente inefficace. Già abbiamo perso un anno per la Sicilia, per i siciliani, abbiamo perso un anno per ipotesi di sviluppo, abbiamo perso un anno per i fondi anche europei. E del resto il governo nazionale non ci ha neanche aiutato, del resto ha fatto in modo che venisse stornate quelle che erano risorse destinate proprio alla Sicilia. Scusi Genovese, per capirci, quindi il PD non ha alcuna intenzione di entrare nella giunta Lombardo bis o dare un appoggio esterno? Assolutamente, non c'è un'ipotesi di questo tipo, né può essere presa in considerazione con una vicenda così come è stata impostata. Del resto il presidente Lombardo ha già dichiarato ieri che giovedì mattina presenterà la sua giunta in maniera autonoma, cercando in aula provvedimento per provvedimento la propria maggioranza. Beh, insomma, auguri, se ci saranno dei provvedimenti che ovviamente in parte condivideremo, che sui quali potremo convergere, per carità, vedremo cosa fare, valuteremo al momento, ma con maggioranza organica non credo che sia possibile, anzi non è assolutamente possibile. Ecco, su questo tema sembra esserci qualche sfumatura diversa all'interno del suo partito. Leggiamo oggi dai giornali, ad esempio, che il capogruppo in Assemblea regionale siciliana dice se ci sono idee di rottura, insomma l'idea di un appoggio esterno si può anche valutare. Ma guardi, queste sono sfumature, appunto, rispetto alle quali devo dire ho tutte le mie perplessità. Appoggio esterno ad un governo di che tipo? Non riesco anche a capire quale può essere la formula che faccia pensare a tutti noi di dare un sostegno esterno a questo governo. Vedremo cosa farà il presidente Lombardo domani mattina, come presenterà la giunta, chi metterà in giunta, il profilo degli uomini di governo, valuteremo, ma insomma la considero un'ipotesi residuale. Teme qualche fuga di qualche esponente del Partito Democratico, in qualche modo tentato da posizioni appunto in giunta? Guardi, non ne ho notizia, nel senso che proprio non credo che questo sia possibile, o comunque non è possibile con l'avallo del partito. Sotto questo profilo bisogna essere rigorosi, nel senso che noi dobbiamo rispettare il mandato che è stato dato agli elettori, cosa che ha detto anche Lombardo, devo dire, nella sua conferenza stampa, dove ha dichiarato che lui non intende fare ribaltoni, intende soltanto portare avanti un'azione di governo. Noi ci auguriamo che la porti avanti in maniera più efficace, più diretta, e che dia davvero soddisfazione quantomeno minima ai siciliani, che per il 65% gli hanno dato consenso. Insomma, per capirci, se qualcuno del PD dovesse entrare in questa nuova giunta, sarà fuori dal partito? Beh, scontato, assolutamente sì. E grazie a Francantonio Genovese, segretario del PD in Sicilia, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie, buongiorno. E noi adesso parliamo della riforma del processo civile che è stata approvata in via definitiva ieri dal Senato e che punta a snellire i tempi dei processi. Consentirà celerità e trasparenza, ha detto oggi il ministro della Giustizia Angelino Alfano. Tra le principali novità, l'introduzione del filtro per i ricorsi in Cassazione, filtro che gli avvocati indicano come elemento critico. Facciamo il punto sulle misure contenute in questo servizio. Limiti precisi per i ricorsi in Cassazione, maggiori competenze ai giudici di pace, in forma sintetica, testimonianze scritte, procedimenti sommari per definire le cause più rapidamente, deleghe per rilanciare la conciliazione e sanzioni alle parti che puntano a perdere tempo. Sono le principali misure contenute nella riforma del processo civile, approvata ieri in via definitiva dal Senato, riforma che si propone di curare la malattia endemica della giustizia italiana, la lentezza dei processi. La durata media di un processo civile nel nostro paese è di 1210 giorni. Nella graduatoria stilata dalla Banca Mondiale, il nostro paese è al 156esimo posto su 181 presi in considerazione. Veniamo dopo paesi come Angola, Gabon e Guinea. Tra le misure contenute nella riforma spicca il filtro per ridurre il numero dei ricorsi in Cassazione che dovranno fare i conti con specifiche condizioni di inammissibilità. Filtro contestato da parte dell'avvocatura, che ha messo in guardia su possibili ricorsi per sospetta incostituzionalità. Ubaldo Perfetti, vicepresidente del Consiglio Nazionale Forense. Comprendiamo le esigenze di frazionare il processo in Cassazione, però il sistema che è stato escogitato non è secondo noi dei migliori, perché condiziona l'ammissibilità del ricorso per Cassazione la circostanza che il giudice del merito si sia discostato dalle precedenti espressioni della Corte di Cassazione, che quindi, come dire, che i giudici del merito da questo momento in poi, l'unica condizione che si adeguino ai precedenti della Corte di Cassazione, vedono le loro sentenze intangibili in Cassazione. Quindi questo è il profilo che lascia sostanzialmente perplessi gli avvocati. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:49 minuti, 3 secondi, andiamo in Pakistan. Sì, perché questa mattina c'è stato un attentato contro la stazione centrale di polizia Lahore e là c'era il corrispondente del Sole 24 Ore, Marco Masciaga. Sentiamo il suo racconto. Un comando suicida composto da almeno 4 persone che si è fatto largo tra i posti di blocco a colpi di arma da fuoco a bordo di un'autobomba imbottita con un quintale di esplosivo nel pieno centro di Lahore, davanti a una stazione di polizia. Ci è voluto più di un mese, ma alla fine i talebani hanno risposto a modo loro all'offensiva con cui l'esercito pakistano sta lentamente riconquistando i distretti di Bunair, Dire e Swat, che negli ultimi mesi erano finiti sotto il controllo degli estremisti islamici. L'attentato di questa mattina, che ha letteralmente raso al suolo una centrale di polizia, ha fatto una trentina di vittime, almeno 150 feriti, non è una sorpresa. Il comandante talebano Baitullah Mesud aveva promesso che il terrorismo sarebbe tornato a colpire al cuore dello Stato pakistano e questa mattina lo ha fatto, a Lahore, la seconda città più popolosa del paese e il centro nevralgico di quel Punjab in cui da sempre si decidono le sorti politiche del paese. Marco Masciaga, GR24, Sole 24 Ore. Lahore, Lahore. Restiamo nel mondo islamico, ma andiamo in Iran, dove l'accesso a Facebook è stato nuovamente autorizzato dopo essere stato bloccato sabato scorso. Le autorità non avevano dato alcuna spiegazione, ma secondo alcuni la mossa era stata motivata dall'uso che se ne stava facendo ai fini della campagna elettorale per le presidenziali. A una settimana dal voto presidenziale iraniano del 12 giugno, in una Teheran piena di cartelloni pubblicitari dei quattro candidati, il presidente in carica Ahmadinejad, Rezaei per il fronte conservatore, Murhassein Mousavi e Karoubi per il fronte riformista, ieri è stato riaperto il Facebook, il social network che i giovani studenti iraniani stanno usando per sostenere soprattutto il candidato riformista Mousavi. La corsa alle presidenziali, che pariva in primo momento in mano salda da Ahmadinejad, ora sembra più aperta con il candidato riformista Mousavi, che punta soprattutto sul disagio economico di un'inflazione al 29% ufficiale. Il nostro destino non è la povertà, ha detto Mousavi a un comizio a Tabriz. Mancano soprattutto i capitali stranieri. Nel 2008 sono arrivati appena 900 milioni di dollari a causa delle sanzioni economiche americane, europee e delle Nazioni Unite. Vittorio D'Arold, GR24, Il Sole 24 Ore, Teheran. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Notizia di un poco fa, un istituto tecnico di Parma è stato evacuato verso mezzogiorno per una fuga di gas. Una ventina di studenti sono stati portati al pronto soccorso per accertamenti. Due persone accoltellate a Roma, che si prepara alla finale di Champions League. 50.000 tifosi da Barcellona e Manchester. Giornali inglesi durissimi oggi con Silvio Berlusconi. In due editoriali, Financial Times e Independent, lo definiscono un pericolo per l'Italia. Opel, Berlino annuncia un prestito ponte da 1,5 miliardi di euro. Montezemolo lo dice, la Fiat ha fatto tutto il possibile. Sciopero di 8 ore nella zona industriale di San Roque, nel Cagliaritano, protesta per la morte di 3 operai avvenuta ieri in una cisterna della raffineria Saras. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Al coordinamento Daniele Biacchesi, in regia Pietro Lacorte. Il prossimo GR alle 15, noi ci risentiamo domani alle 13. GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.